Carissimi, mi avete sentito tante volte dire questa frase, che la Bibbia è un libro spirituale, un libro di preghiera, di riflessione, ma è anche un libro di vita, cioè ti serve anche a vivere bene. Lo testimonia soprattutto la lettera di Giacomo che stiamo leggendo. Provate a guardare queste prime righe. Ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. Basterebbero queste parole, amici, per dire ce n'è a sufficienza, Pronto ad ascoltare. Beh, questo ancora, anche se tante volte noi non ascoltiamo, noi sentiamo. Tant'è vero che qualcuno dice: ma mi hai sentito quello che ti ho detto? No, ero distratto. Ascoltare vuol dire porre attenzione in quello che uno ti dice, farlo tuo, pronto ad ascoltare, lento a reagire. Quante volte invece noi siamo proprio, anzi, non lasciamo neanche finire di parlare quell'altro, che subito pampete la nostra reazione. Oppure uno ci fa un'osservazione e noi reagiamo subito con la stessa moneta. Invece Giacomo ci dice: lento a parlare e lento all'ira. Lo si dice anche popolarmente, no? Prima di rispondere o di scattare, conta mentalmente fino a 10, no? Ora, basterebbero queste tre frasi: pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, assieme alla frase che arriva dopo: siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori. Come fare? Come fare perché la parola di Dio sia proprio impiantata dentro di noi, metta radici profonde e faccia frutto? Io vi suggerisco un modo conosciuto da 2000 anni, ma che purtroppo il popolo cristiano ancora fa fatica a imparare: leggere la parola di Dio, mangiarla, capirla bene e poi farla diventare preghiera. Ecco, immaginate che noi siamo in chiesa per conto nostro, perché anche adesso siamo in chiesa, ma poi la messa continua, non c'è tempo per fermarsi a mangiare bene. Ecco perché sarebbe bello fare la visita al Santissimo Sacramento portandosi il messalino quotidiano e riprendendo queste parole. Uno ritorna qui in chiesa, riprende queste parole e alza lo sguardo al tabernacolo e dice: oh Signore, come sono belle queste parole, come sono difficili, aiutami tu. Ecco che la lettura comincia a metterle radici. Signore, te lo chiedo a te, fammi capace di ascoltare bene. Rendimi capace di non reagire subito, lento a parlare e soprattutto, ti prego, vinci il mio carattere, che è spigoloso e occorre dare qualche colpo di lima, colpo di raspa per arrotondare questi spigoli. Tu leggi, mediti e fai diventare preghiera. Allora la parola di Dio l'abbiamo ascoltata e la viviamo. Coraggio, amici, io lo dico a voi perché cerco di farlo io per primo. Se vedete il mio messalino è tutto sottolineato, perché io non mi preparo mai alla messa, tranne casi in cui proprio rarissimi, ma dedico una mezz'oretta, cioè tu hai tempo, avete ragione. Ma davanti alla televisione penso che un po' di tempo lo passate anche voi, no? Ma tu hai tempo, Ecco, se noi riusciamo a sottolineare, riusciamo a tradurre le parole in riflessione e in preghiera, io credo che il segno lo lasciano. Se noi viviamo la nostra vita insistentemente così, così, così, guardate, il segno resta, eh? Io ho imparato un proverbio molto bello. Crescere un figlio, e io dico educare un parrocchiano, è un'arte difficilissima. Tu gli fai le raccomandazioni al figlio, al parrocchiano, ma è come buttare l'acqua sul muro. L'acqua sta sul muro, no, cade. E così tu lo dici a un figlio, lo dici a un parrocchiano, ma la tua osservazione sta su, no, cade. Però il muro si bagna. Non solo. Se tu continui a buttare acqua, continui a far cadere acqua. Però il muro si inzuppa e col tempo viene fuori l'umidità. Coraggio, buttiamo acqua sul muro nostro, sul muro delle persone che ci sono affidate, e io come sacerdote sul muro vostro. Io in settimana faccio degli incontri in cui leggo la Bibbia. Ad esempio stiamo leggendo il Siracide. Non eravamo molti a martedì, però 8 persone erano presenti ed è piaciuto molto. E io l'ho registrata e la manderò alle persone che desiderano, perché solo a buttare acqua sul muro, solo continuando a ripetere la parola di Dio, cade, si perde, ma il muro si bagna.